Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie ancora una volta per l'ascolto, grazie a Cristiano Valli per la regia, tanti auguri di buona sopravvivenza in una città assediata dallo smog, ma come dice il sindaco non si può fermare le auto perché sennò si mortificherebbe lo shopping. Lasciamo perdere per il momento, buona giornata. L'appuntamento, il prossimo appuntamento è domenica 10 gennaio. Arrivederci.